Cari amici di Radio Big World, ciao a tutti da Pietro Pancamo. Anche oggi vi recensirò qualcosa, e per la precisione, una raccolta di novelle che si intitola Il terzo uomo sulla luna e che è stata pubblicata nel 2002 dalla casa editrice Baldini Castoldi Dalai. C'è un'acuta distanza, quasi totale, cioè irreversibile o giù di lì, fra i sentimenti e il mondo attuale, al punto che ognuno di noi, se fosse onesto, si dovrebbe inquisire schiettamente, sottoponendosi magari a un discorsetto accusatorio tipo questo: dove finisce la televisione e dove comincia la mia identità? Ahimè. Non resta più alcun confine di riconoscimento. Chi lo sa? Probabilmente peggiorando in circolo e continuando quindi, previa TV, a involversi dai sentimenti alle pulsioni, dall'intelligenza alla scimmia, la razza dominante del nostro pianeta ritornerà, spiritualmente parlando, allo stato selvaggio e brado, da umana che era. E nel frattempo l'arte che fa? Non ci salva? Sfortunatamente no, accidenti. Dal momento che, complice ancora il piccolo schermo, è ormai decaduta a cabaret, rivestendosi forse di motti arguti, ma anche di sfondoni assortiti, veicolati da un italiano drasticamente ridotto al rango degradato di dialetto nazionale, buono per tutte le ignoranze e sgrammaticature. Certo, per fermare il collasso ci vorrebbe qualcuno in vena e in grado di dare l'esempio. Eh sì, ecco la soluzione. Qualcuno ci vuole che scriva e rifletta. Qualcuno che, discosto dalla massa e dalla TV, abbia una ricezione infallibile del cuore in genere e non delle emittenti varie. Qualcuno, insomma, come Francesco Gazzè. Dunque, fratello e paroliere com'è di Max il cantante e musicista, il Francesco in questione ha esordito in proprio nel campo della prosa, pubblicando nel 2002 per i tipi della casa editrice Baldini e Castoldi, in seguito ribattezzatasi Baldini Castoldi Dalai, un volume di racconti suggestivi e corti. Il terzo uomo sulla luna. Che dire mai di quest'opera prima che non ha mancato, naturalmente, di riscuotere lettori e commenti lusinghieri? Beh, cominciare, non soffre mica di illusioni Francesco Gazzè. Anzi, i dolori appresi dalla vita gli insegnano a valutare, se non a auscultare, addirittura desideri, angosce, perplessità. La sua voce è composta di inflessioni melodiche e attraverso le pagine del libro s'articola secondo le direttive di una salda ironia analitica pronta a sublimarsi in acume poetico. Utilizzarlo nell'attimo di un foglio, nel volgere di un libro, per catturare la libertà dell'immaginazione e farne sentimento è facilissimo per l'autore. Egli sottrae alla forza isterica del giorno, della vita corrente ed ordinanza, la propria indole d'artista. Aggira l'esuberanza maligna di pene e ansietà che sono energia, adrenalina del dolore per librare nella dimensione estatica della fantasia fiabe d'incanto. Mai sovrastate dall'affanno, quelle emozioni di pura leggerezza irradiate dal suo animo trovano respiro in novelle delicate e lievi. In tenui parole e trame carezzevoli che indulgono talvolta all'ariosa ecletticità del sogno. Balza l'inchiostro da un racconto all'altro, formando personaggi, azioni, ambienti, mentre nasce la pagina come una lega metallica dal miscuglio di lettere e bianco. I segni e le pause rispettano i confini di storie fluenti e testi brevilinei che, senza cedere alla verbosità, ma con l'aiuto non di meno di armoniose volute sintattiche, illustrano malinconia, gioia e dubbio. Quindi sentimenti multiformi che, trasfigurati dall'ironia onnipresente, diventano profezia d'amore e riscatto umano, impreziosiscono il tessuto letterario di queste novelle. E intanto sogni attraversano rapiti lo spazio di carta, per mutare in musica le parole e allietare le pagine con melodie narrative pervase di sole. Un sole inconfutabile che non splende a vanvera e al contrario sa illuminare con cognizione di causa la bravura di Francesco Gazzè, scrittore ben diverso da quelli che discutibilmente trascorrono la propria esistenza intera ed effettiva alla ricerca ossessionata, di interviste o trasmissioni da cui lasciarsi ritrarre nell'atto retorico, persino narcisistico, di sproloquiare, di soffrire, di incensarsi. No, Gazzè si mostra e dimostra individuo di tutt'altro stampo e identità. Prova ne sia che né il terzo uomo sulla Luna, distinguendosi senza tregua o sosta da coloro, forse gli scrittori suddetti, per l'appunto, che spesso raccolgono frasi, periodi e complementi in organismi grammaticali incapaci di poesia, trionfa impeccabile e sincero nel compito di imprimere corpo e consistenza a sistemi di parole che ora si presentano a forma di nostalgia, ora di sorriso, ora di filosofia. Quella, ad esempio, birichina e suadente che, dando segni d'ironia, impregna, impastandolo di sé, il brano intitolato Prima del Gong. Assalito ovunque dalle sue farine, il giovane fornaio era tutto bianco come pulcinella. Impastava energico la prima luce del giorno, affondandovi le dita e il peso del corpo, colpendo l'impasto chiaro con gli schiaffi e poi lisciandolo sul palmo della mano, quasi pentito, per trarre da esso qualcosa di buono, una forma. Anche una piccola radio portatile prendeva parte al lavoro. Sempre accesa sulla mensola più in alto, sancì quella volta la fine del mondo. Per mezzo di una voce senza suono, lo speaker annunciò, interrompendo una nota trasmissione di musica leggera, che il pianeta stava implodendo a causa di un improvviso vuoto d'aria formatosi intorno al suo centro, e che in quelle ore la crosta terrestre aveva già iniziato ad accartocciarsi lentamente, come la buccia di una pera marcia. Proclamava ciò in preda a una specie di terrore isterico che aumentò come una febbre ad ogni parola. Riuscì comunque a precisare che i migliori geologi di ogni continente erano concordi nell'affermare, con limitato margine di errore, che all'intera umanità non restava più di mezza giornata prima della fine. Il fornaio separò le mani dall'impasto, le avvolse in un panno asciutto, prima di strofinarle davanti alla faccia come una mosca. Andò alla finestra a controllare il panico che intanto si era impossessato delle poche persone già sveglie in città. Se ne aggiunsero altre e lui le osservò per l'intera mattinata affannarsi a realizzare subito sogni che tenevano chissà da quanto incalcati nelle membra, tutti insieme, in fretta, di corsa, alla rinfusa, prima del gong. Lo si può inevitabilmente constatare. Attraverso la parabola del fornaio, il racconto appena citato configura Francesco Gazzè come attento e minuto osservatore delle piccole cose, che gli delinea e traccia con snella incisività, manifestando un talento notevole di cronista accorato, superlativamente preso a studiare i contorni e il nucleo della realtà per rigovernarli in codice con l'intervento e l'appoggio della fantasia. Insomma, si cede quasi alla tentazione di vederlo, il nostro autore, come perennemente affacciato ad una finestra china sulla vita. Sì, eccolo, mentre bloccandosi nel pieno raggio della finestra aperta, si impone allo sguardo dell'aria e cerca di essere la pupilla del vento per scoprire così gli uomini nelle infinitesime particole dei gesti. Risultato eccellente e lirico, Gazzè riesce in questo modo ad avvolgere nei propri occhi di narratore la vicenda complessiva delle persone comuni e quotidiane con tutte le loro ansie, egoismi e volatili euforie che sono, in ultima analisi, i sottomultipli delle ore. Chiaro dunque come il suo libro altro non sia che una antologia di contenuti e sostanze variegate. Sostanze da pranzo di cui il lettore deve cibarsi, masticando a fondo col cuore e la mente, per mitigare la notte reciproca instauratasi ormai da troppo fra l'uomo e i sentimenti. Thank you. Allora, per oggi è tutto, cari amici. A risentirci alla prossima puntata con un nuovo autore e nuove letture.